scelte come non lo sei mai stata tu. Ma sei diventata uno spazio pubblicitario come quelli proiettati alla TV. Tu non mi dai la sicurezza che io vorrei. Tu non mi dai l'amore che per scontato ormai. È più giusto che le nostre